my home. Job 24. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Braccio destro sopra e sotto. Questo è il suono che echeggia in gran parte dei villaggi turistici dove istruttori e animatori intrattengono gli ospiti, e mi perdonerete se evoco l'estate e le vacanze con così ampio anticipo, ma la verità è che chi ambisce a lavorare come animatore deve muoversi adesso, e questo è infatti il periodo delle selezioni. L'agenzia Movida, per esempio, sta cercando 500 animatori per i villaggi Francorosso, Alpitour, Going e altri ancora. Il direttore risorse umane Augusto Odone ci racconta chi è il candidato ideale. Diciamo che non c'è un vero candidato ideale, nel senso che noi ricerchiamo persone che abbiano maturato esperienza nel settore, quindi quelli che possono essere capivillaggio, sportivi con una grande esperienza, piuttosto che ragazzi e ragazze che seguono il mini club con esperienza. Al contempo ricerchiamo anche sempre figure, persone che si avvicinano a questo lavoro per la prima volta, perché solitamente portano un'energia nuova all'interno dei villaggi. È un'ottima chance per gli studenti che vogliono impegnarsi per un'estate, ma anche per chi vuole fare del turismo il suo lavoro. Ci sono possibilità di carriera per chi inizia come animatore? Assolutamente. Io sono un esempio vivente di questo, nel senso ho iniziato anni fa facendo l'animatore quasi per gioco, e adesso mi trovo ad avere una professione, ma ne abbiamo ragazzi che hanno lavorato con noi che adesso sono direttori di villaggi o di hotel, abbiamo persone che sono entrate a lavorare con il tour operator con diverse competenze. Però effettivamente io la consiglio come padre di famiglia, anche la consiglio perché è una grandissima esperienza di vita sotto tutti i punti di vista. Può essere una strada anche in questo periodo di crisi, in questo anno considerato terribile? Secondo me è una grande strada, bisognerebbe approfittare, bisognerebbe capirlo, perché in un momento dove c'è tanta crisi noi cerchiamo di portare persone a lavorare in destinazioni dove, grazie a Dio, in questo momento magari non c'è la crisi, magari stanno iniziando adesso ad espandersi, quindi io lo consiglio vivamente perché effettivamente potrebbe essere una grande chance, e soprattutto si impara un mestiere e si impara veramente un modo di vivere completamente diverso che poi servirà tantissimo anche quando torneremo a casa. Le selezioni saranno giovedì prossimo, il 29 a Verona, il 5 febbraio a Milano, e poi toccherà a Firenze, Napoli, Bari e ad altre città. Per le informazioni www.movida.cc. E prima di salutarci voglio segnalare a tutti gli interessati ai temi del lavoro Job 24, in uscita domani come ogni mercoledì con il Sole 24 Ore. È davvero tutto, una buona giornata da Roberta Pellegatta. I hope, I hope, I hope.